Benvenuti, l'ho detto. Sì, lo dico di no, benvenuti a tutti. Sono un po' perplesso, a dire la verità. È successo di tutto nel preparare questo. Prima non eravamo d'accordo con mia moglie e questo era la cosa, l'ostacolo più grosso da superare. Poi si è rotto il computer, poi non stampava la stampante. Insomma, piano piano però poi abbiamo superato tutto. Ma stamattina la voce non tanto va bene, però credo che ce la faremo. Voglio salutare tutti quanti voi, voglio salutare tutti quelli che sono collegati, Mottola, probabilmente c'è anche Cristian, il direttore di Porta Aperte, per il quale dobbiamo pregare perché ha avuto il Covid in un modo abbastanza aggressivo, quindi ricordiamolo nelle nostre preghiere. Il titolo di questo messaggio è Quattro amici e una barella. È vero, è sì, così è, l'ho scritto anche, è perché è tratta proprio di una storia molto, molto conosciuta, che è scritta nel Vangelo di Marco, al capitolo 2. Questo Vangelo, il Vangelo di Marco, non è stato scritto da un discepolo di Gesù, però Marco era un collaboratore prima di Paolo, poi anche di Barnaba, del quale era anche cugino, li ha seguiti nei viaggi missionari. E nel periodo che Pietro è stato a Roma, lui gli faceva da assistente e Pietro gli ha trasmesso la testimonianza che Marco ha messo per iscritto. E così è nato il Vangelo di Marco. Quindi è la testimonianza di un testimone oculare, proprio di prima mano, qualcuno che le ha vissute in prima persona. Le situazioni. Vogliamo leggere assieme? Ecco che cosa mancava. Vogliamo leggere assieme Marco, il capitolo 2, dal versetto 1. È scritto: dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Capernaum era una città in riva a un lago, una città di pescatori, ed era la città dove Gesù aveva scelto di abitare. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. E vennero alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fatavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, probabilmente in maniera affettiva perché era giovane, però gli disse: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? E cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. È una storia che certamente abbiamo già sentito e che probabilmente abbiamo letto tante volte, ma è una storia che vi assicuro non finisce mai di stupire. E a me in questo ultimo periodo ha insegnato tanto. Gesù stava rientrando da un giro missionario, era proprio all'esordio del suo ministero, aveva iniziato da pochissimo. E ha fatto un giro nella Galilea, nella regione, per farsi conoscere un po'. E lui andava nelle sinagoghe a predicare, quando si trovava a parlare parlava e soprattutto aveva fatto diverse guarigioni, diversi miracoli, al punto che anche se non c'erano cellulari ed SMS, la voce si era sparsa e quando è rientrato a Capernaum, appena si è saputo che era in questa casa, che probabilmente era proprio la casa di Pietro, si era adunata una grande folla. Tanta gente che ha riempito la casa, ha riempito di fronte della casa, e tutta quella gente che era lì per un motivo, per un paio di motivi precisi: conoscere Gesù, avere, diciamo, farsi un selfie con lui e in qualche modo anche approfittare della sua capacità di guarire. Dicevo, io è tanto tempo che ho l'artrosi, chissà che Gesù non può fare qualcosa. Stamattina parlavo con Michele, un mese di pillole e ancora non va via il dolore. Era l'occasione buona anche per in qualche modo farsi guarire. E dov'era Gesù? In una casa. E che cosa stava facendo? Un gruppo familiare. A Gesù gli piaceva assai andare nelle case, a fare i gruppi familiari, a stare nelle famiglie, a stare in mezzo alla gente, ad ascoltare le persone che parlavano, che esponevano i loro problemi e a rispondere ai loro problemi. In questo gruppo familiare c'era una categoria particolare di persone che in Marco non viene, nell'Evangelo di Marco non viene tanto, non emerge tanto. Ma se andate a leggere nel Vangelo di Luca la stessa storia, Luca parte proprio dal presentare queste persone ed è scritto così in Luca 5, 17, la stessa storia. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei, dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere le guarigioni. Queste erano le persone più importanti del popolo, erano persone acculturate, erano persone politicamente potenti, erano persone che potevano decidere del destino delle persone, avevano anche loro sentito di Gesù, di questo giovane uomo che stava sconvolgendo quella regione lì. E hanno detto, andiamo a vedere di che cosa si tratta, perché non siamo noi più al centro dell'attenzione e adesso c'è questo Gesù. Quindi queste persone, mentre tutti erano fuori che si accalcavano, come abbiamo letto, queste erano sedute, avevano i primi posti, erano le persone che erano riuscite ad entrare in prima fila. Le case ai tempi di Gesù, queste sono tutte cose che ci fanno riflettere, ci aiutano a capire bene la storia. Le case al tempo di Gesù erano molto semplici, erano probabilmente una stanza sola, una stanza a due piani, dove nel piano rialzato, fatemi dire così, c'erano le persone con pochi mobili, lì si cucinava, si dormiva, si faceva tutto, e nel piano, diciamo, più basso c'erano gli animali che trovavano ricovero durante la notte. Quindi si trattava di una stanza solo con pochi mobili e con questa sistemazione qua. E in particolare tutte le case di quell'epoca avevano una scala esterna che portava sul tetto. Perché? Per diversi motivi, perché il tetto serviva per lavorare. Il tetto serviva per andare a dormire d'estate quando faceva troppo caldo, si montava una tenda e si stava sul tetto. Serviva per stare al fresco della sera, per seccare i pomodori, non so, noi ridiamo, è proprio così. Il tetto faceva parte integrante della casa e c'era questa scala esterna che conduceva su. Mentre Gesù stava lì a parlare, stava a insegnare, succede qualcosa fuori. Ci sono quattro uomini che cercano disperatamente di farsi strada in mezzo a questa folla. Perché un altro particolare che è interessante è che le case della stessa famiglia, dello stesso nucleo familiare, il suocero, la suocera, il nipote, lo zio, si affacciavano tutte sullo stesso cortile. Quindi c'era un cortile con tutte queste monolocali, chiamiamole così, tutti questi monolocali attorno, in modo che la famiglia fosse tutta unita. Quando qualcuno si sposava, allargavano il recinto. E tutto era pieno, abbiamo letto. Lo spazio davanti, lo spazio attorno. E questi quattro uomini cercavano di passare con questo lettuccio, con questa barella, dove avevano un loro amico che era paralizzato. E non riescono a passare. Perché non riescono a passare? Perché se io ho l'artrosi al braccio e voglio essere guarito da Gesù e non faccio passare nessuno avanti, un po' come dal medico, chi è l'ultimo? E allo stesso modo era la situazione qui. E non riuscivano a passare e hanno cercato in tutti i modi e alla fine hanno trovato un escabotage. Dice, saliamo sul tetto, vediamo che cosa succede. È interessante questo, è interessante perché questi uomini non si sono arresi, non si sono arresi di fronte alla difficoltà, all'impossibilità di far giungere il loro amico davanti a Gesù affinché lui potesse in qualche modo fare qualcosa. Non si sono arresi, hanno cercato una soluzione e hanno insistito. E sapete Gesù come ha chiamato questo atteggiamento? Lo ha chiamato fede. Lo ha chiamato fede. Gesù ha detto a loro, non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoppiacchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico. Ora, questo versetto ci impone una riflessione. Dobbiamo fare delle valutazioni su noi stessi, fino a che punto ci spinge la nostra fede, fino a che punto siamo disposti a insistere, a cercare di superare gli ostacoli. Guardate, quegli uomini potevano dire, oh, ce l'abbiamo messa tutta, al paralisi, senti, ce l'abbiamo messa tutta, magari domani ti portiamo a vedere i tulipani, ecco, così sei più, però non ce l'abbiamo fatta a portarti da Gesù. No, loro hanno insistito e hanno chiamato, Gesù ha chiamato fede. Ora, quanto la nostra fede ci costringe a insistere? Quanto la nostra fede ci costringe a riprovare, quanto la nostra fede condiziona le nostre scelte. Fino a che punto siamo spinti dalla fede? Fino a che punto ci spinge la rabbia? Fino a che punto ci spinge la delusione? Fino a che punto ci spinge il desiderio di vendetta? Fino a che punto ci spinge l'indifferenza? Venendo, la macchina mi ha schizzato tutto. Mi sono reso conto fino a che punto mi spinge la rabbia. Fino a che punto ti spinge la fede? E fino a che punto ti spinge l'egoismo? Fino a che punto ti spinge il desiderio di successo? Hanno tutte e due lo stesso valore? Hanno tutte e due le cose, lo stesso impulso dentro di te? E ancora, fino a che punto sei disposto a darti per aiutare un altro, a incontrare Gesù? C'era Gesù, c'era qualcuno che aveva bisogno di incontrare Gesù. Questi uomini si sono dati, si sono prodigati, si sono spinti per aiutare il loro amico. Fino a che punto tu sei disposto a darti per aiutare il tuo amico? Fino a che punto sei disposto a spenderti per permettere a qualcuno di arrivare a Gesù? Ora, se io fossi stato quel paralitico, quel giovane paralitico, sottolineo giovane, quattro amici qua che aiutavano il paralitico, che aiutavano me, ci sono? Uno, due, tre, tre e mezzo. Sono timidi questi amici. Vogliamo invitarli avanti, questi amici che aiutano il paralitico? Allora io ho visto la mano di Rino, ho visto la mano di Vito, ho visto la mano di Nino, la mano di Feluccio. Feluccio dove sta? Non c'è, ecco perché non l'ho vista la mano di Feluccio. Fabrizio, vieni Fabrizio, venite davanti, non abbiate, poi non vi faccio niente. Nino, dove sta? Vito, forza, coraggio. Questi sono i quattro amici che sono disposti. Allora, questi quattro amici sono disposti ad aiutare il paralitico, va bene? In modo del tutto occasionale, proprio così. Qua abbiamo una barella. Vedete, la volete prendere per piacere, che è lì nell'angolo? Prendete la barella per piacere. Oh, non la dobbiamo né rompere e né capottare questa barella, state attenti. Io ho bisogno di qualcuno che fa le veci mie. Gabriele, vieni a papà, vieni. Vieni a papà, vieni. Allora, ecco qua la barella. Ecco, qua così. Voi non avete un'idea di che cosa significa procurare una barella. Non avete un'idea. Allora, questo è il giovane paralitico, prego. Prego, stenditi bene bene, qua va la testa. Fai il paralitico, papà. Ecco così, benissimo, un po' più avanti, ecco così. Allora, perché noi quando leggiamo la storia ci sembra una cosa facile, ci sembra, dice, hanno preso la barella, già non avevano inventato gli ospedali, figuratevi le barelle, però noi ci abbiamo una barella. Adesso io vorrei che questi quattro amici, perché sapete come si sono trovati questi quattro amici? Allora, Vito che è il barbiere, è stato il primo che ha saputo che andava a Capernaum Gesù, era il primo che sapeva che è andato a Capernaum e ha detto, oh, dobbiamo aiutare il nostro amico. Poi c'era Nini, il dottore ha avuto qualche perplessità, perché essendo del mestiere, cioè il paralitico, ma che deve fare Gesù? Quello è paralitico. Fabrizio si è trovato, dicevo, vabbè, se dobbiamo dare una mano, diamola. E anche Rino si è trovato coinvolto, senza sapere che sarebbe stato lui a rimettere a posto il tetto. Lui non lo sa ancora, ma era lui che doveva mettere a posto il tetto. Adesso proviamo a vedere come riescono a portare la barella. Io vorrei chiedervi di scendere le scale. Potete provare? O potete fare solo avanti e dietro? Beh, meglio avanti, allora proviamo a fare avanti e dietro. Non mi capottate il paralitico, per piacere. La barella, allora avanti. È dietro. Quello è già paralitico, qui non lo andiamo a rovinare il resto. Ok, quindi, buoni, non abbiamo finito. Quindi, voi vi rendete conto che c'era da accordarsi? No, il paralitico sta fermo là. Cioè, c'era da accordarsi, c'era da mettersi in accordo, da capire che cosa doveva fare, e le scale comunque non le abbiamo fatte. Effettivamente la barella è un po' larga per quelle scale, stamattina l'ho visto ed è un po' là, però salire un piano di scale con un lettuccio non era qualcosa che si faceva molto agevolmente. Questi lo hanno fatto, spinti da che cosa? Dalla fede. Ora, questi quattro amici hanno un altro insegnamento da darci. Per piacere, volete decidere che è il migliore fra di voi, il più forte, il più adatto, il più? Chi è fra di voi il più forte? Se c'era Feluccio, Rino è d'accordo che è lui. Allora, Rino, per piacere, vuoi provare da solo a fare avanti e dietro la barella? Che cosa ci insegna questo? Che tu puoi essere più bravo, tu puoi essere più forte, tu puoi essere quello che si mette al di sopra di tutto, ma da solo non ce la fai. Hai bisogno di qualcuno che ti aiuta, hai bisogno di qualcuno che ti appoggia, hai bisogno di qualcuno che lavora con te, e questo è valido nella vita. Potete andare, vi ringrazio. Vogliamo ringraziarvi. Grazie. Soprattutto, rimettiamo la barella dietro per piacere. Ringraziamo il paralitico che ha rischiato grosso. Ti aiuta tanto avere qualcuno che ti aiuta. Ti permette di realizzare quello che Gesù vuole fare attraverso di te. Da solo non ce la fai, hai bisogno di fare squadra, hai bisogno di fare team, hai bisogno di essere in accordo con gli altri, hai bisogno di non essere solo. Tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming, se stai rischiando di essere solo, dove, che telecamera devo guardare per dirglielo bene bene? Quella. Se stai rischiando di essere solo, renditi conto che non ce la fai, hai bisogno degli altri. E Gesù che cosa stava facendo? Un gruppo familiare. Il gruppo familiare è nel cuore di Gesù. Il gruppo familiare è quello che Gesù sceglie per guarire le persone. Sapete, Gesù non sa fare miracoli soltanto la domenica. Li fa anche in settimana, e per farli usa e sfrutta e benedice i gruppi familiari. Vogliamo ringraziare tutti i capogruppo che sono in mezzo a noi, che rendono possibile l'azione di Gesù anche il lunedì, il martedì, il mercoledì. E io voglio ringraziare Isa in modo particolare, perché sono stato a casa sua a un gruppo familiare e ho visto tutte le difficoltà logistiche e di spazio e di tempo, eppure lo ha fatto. E a Trigiano sta avvenendo qualcosa di bellissimo sotto la guida di Nino e Angela. E io voglio ringraziare ognuno di voi a nome del pastore, a nome della Chiesa, perché questo è nel cuore di Dio. Vuoi vedere Gesù all'opera? Vuoi vedere i miracoli? Apri la tua casa a un gruppo familiare. Fai parte di un gruppo familiare. Guida un gruppo familiare. Non essere timido. Perché c'è il Covid, è vero, ma col Covid andiamo a lavorare, col Covid facciamo tutto quello che c'è da fare. Possiamo fare anche il gruppo, con le precauzioni, possiamo fare anche il gruppo e possiamo venire anche al culto. L'opera di Dio non si ferma. Torniamo un attimo sul tetto, perché lì succede qualcosa di molto particolare. Abbiamo detto, non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto, quindi si sono messi proprio a scavare e a fare un buco sul tetto, e lo hanno scoperchiato e hanno calato il lettuccio. Io penso che lì il paralitico proprio dice, mo già sto rovinato, questi mo, vabbè, però lo hanno fatto. E Gesù, veduta la loro fede, disse, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora Nino, il dottore, ha pensato, l'ho detto io che non si può fare niente. L'avevo detto io che non si poteva fare niente. Fabrizio e Vito hanno detto, mo, tutta questa fatica per niente. Rino stava già facendo i conti di quanto gli sarebbe costato riparare il tetto, perché era amico di Pietro e sapeva che a lui sarebbe andato gratis, perché l'avevano rotto apposta. E tutti e quattro assieme, sapete che cosa hanno pensato? Hanno detto, mo lo dobbiamo anche riportare a casa. E Gesù che fa? Dice, i tuoi peccati sono perdonati. Questo è qualcosa di estremamente importante, perché qui Gesù stabilisce una priorità. Gesù stabilisce una priorità. Vedete, qualsiasi guarigione, qualsiasi miracolo, qualsiasi liberazione, qualsiasi opera potente, anche un morto che resuscita, non garantisce la vita eterna. Il perdono dei peccati, sì. E questo ci parla di nuovo dell'eternità, e Gesù ha sempre nella sua mente, nel suo cuore, l'eternità. Ora, in mezzo a noi, dobbiamo valutare che cosa ci spinge ad andare da Gesù. Voler avere una vita della qualità migliore? No. Voler avere una qualità della vita migliore? O la vita eterna? Facciamo presto a rendercene conto. Basta che guardiamo di cosa sono piene le nostre preghiere. È semplice. Ora, io credo che sia il paralitico che i quattro amici sono rimasti delusi parecchio. Perché? Perché come tutto il resto delle persone erano lì per essere guarite, perché volevano la soluzione dei loro problemi. E molti in mezzo a noi, giustamente, sono qui perché sanno che Gesù può aiutare nei problemi. Problemi familiari, problemi di salute, problemi... Gesù lo può fare, lo aveva fatto nel tour precedente, quindi lo può fare anche adesso. Ma quello che c'è nel cuore di Gesù, prima di ogni altra cosa, è la tua salvezza. Gesù è andato sulla croce, non per guarire le persone, ma perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Gesù è andato sulla croce per la salvezza eterna. Quindi tu, ti prego, prima di preoccuparti di qualsiasi altra cosa, di qualsiasi altro dolore, di qualsiasi altro problema, di qualsiasi altra difficoltà, preoccupati di avere la vita eterna. Perché questa è la preoccupazione principale che Gesù ha. E Gesù ha detto a quel giovane, volete che Gesù non sapeva che cosa si aspettava quel giovane? O non ha visto la faccia di quelli che stavano sopra? Ma era molto, era troppo più importante la vita eterna. Quindi qui adesso, se la tua priorità è una vita attraverso Gesù, è una qualità migliore della tua vita, rivedi. Perché la priorità per Gesù, e Gesù si aspetta che sia anche per te, è la tua salvezza. E mo ci ritroviamo di nuovo con quelle persone che erano in prima fila, gli scribi e i farisei, perché al dire di Gesù i tuoi peccati sono perdonati, sono saltati dalla sedia, perché hanno detto come? Solo Dio sta bestemmiando, solo Dio può perdonare i peccati. E sapete una cosa? Avevano ragione. Avevano ragione. Quello che non avevano considerato è che Gesù era il figlio di Dio. Gesù era Dio e lui poteva perdonare i peccati. Percorso 3. Gesù vero uomo, Gesù vero Dio. Se non hai fatto il percorso 3, prenotati e fallo, in modo che tu possa capire anche quello che viene scritto e viene detto nella parola di Dio in un modo più cosciente. Percorso 1, percorso 2, percorso 3 ci servono per capire quello che la Bibbia dice, perché succedono certe cose, perché Gesù ha detto così. Queste cose ci insegnano, e io voglio ringraziare Noemi e tutto il suo staff che si danno e si prodigano per darci la possibilità di scoprire la grandezza, la grazia e l'abbondanza che c'è nella parola di Dio. E Gesù, non avevano detto ad alta voce, guarda che cosa sta succedendo. Gesù capisce con il cuore, perché con le orecchie non c'era niente da capire, con il cuore capisce, ma perché fate questi ragionamenti? E la questione la risolve in modo molto semplice. Dice, che cosa è più facile? Dire, alzati dalle tucce, cammina, o dire i tuoi peccati sono perdonati? Perché i tuoi peccati sono perdonati, pure io lo posso dire, tanto non si vede. Ma alzati dal lettuccio e cammina, si vede. E Gesù dice, affinché voi crediate. Quindi qui ci insegna che lui ci fa la grazia di operare in mezzo a noi affinché noi possiamo credere di più in lui. E non perché una volta risolti i problemi, ma Gesù, grazie assai, e ce ne andiamo. E allora disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. E lì è avvenuto che cosa? Che il paralitico si è alzato, ha preso il suo lettuccio e se n'è andato. Questo è forse l'unico miracolo che Gesù fa di proposito, non tanto per la fede, che era anche una fede delusa dei quattro amici del paralitico, ma per smascherare l'incredulità, per smascherare chi metteva in dubbio la sua autorità. Però ascoltatemi bene adesso. Ascoltatemi bene, perché questo miracolo ha qualcosa di eccezionale, ha qualcosa di meraviglioso in sé, ha una ricchezza per noi qui questa mattina che non possiamo e non dobbiamo lasciarci sfuggire. Gesù non prega, non fa nessuna preghiera. Gesù non impone le mani. Gesù non sgrida lo spirito maligno. Gesù non caccia la malattia. Gesù non fa niente. Dà un ordine. A chi lo dà l'ordine? Al paralitico. Gli dice, alzati dal lettuccio. Ora, immaginate il paralitico. Quante volte ha provato ad alzarsi già? Quante volte ha provato a uscire da quella situazione? E non ci è riuscito. E alla fine si è scoraggiato e ha rinunciato. E Gesù gli ordina. Alzati. Ora, quando Gesù dà un ordine, lui garantisce il successo di quello che dice. Quindi quando Gesù ha detto al paralitico, alzati, significa che il miracolo lo aveva già fatto. Adesso la scelta era nelle mani del paralitico, di credere o meno. Il paralitico ha creduto e si è alzato. Quante volte Gesù ti ha detto alzati? Alzati da una situazione complicata, da una situazione familiare che paralizza le relazioni. Alzati da una dipendenza. Alzati da un peccato. Alzati da una malattia. Alzati dall'indifferenza, alzati per essere salvato. Quante volte Gesù ti ha detto alzati? Per ogni volta che Gesù ti ha detto alzati, aveva già fatto un miracolo. Perché Gesù garantisce il successo di quello che dice. E la dimostrazione ne è la croce, perché sulla croce Gesù ha pagato ed è risorto. La dimostrazione della vittoria di Gesù è la croce. Quindi io voglio veramente che noi questa mattina riflettiamo su quante volte Gesù ci ha detto alzati. E noi siamo rimasti seduti. Quante volte Gesù ha fatto già un miracolo e questo miracolo è rimasto lì, seduto nella barella. E io questa mattina voglio darci la possibilità di rispondere a quello che Gesù ha fatto. E io guardo prima me stesso. Tante volte Gesù mi ha detto alzati e io sono rimasto seduto, sono rimasto sdraiato. Io che sono qui a parlarvi, perché io sono solo un asino che porta Gesù, non niente di più. Ma forse anche a te Gesù ha detto alzati e sei rimasto seduto. Però io voglio sfidare ognuno di noi questa mattina a riprendere nelle mani la propria vita, come quel paralitico, e a riconoscere la voce di Gesù che dice alzati e ad alzarsi. Forse ti devi alzare da un peccato, ti devi alzare da una dipendenza, ti devi alzare da una situazione che ti sta opprimendo, ti devi alzare, perché Gesù te lo ha detto. Allora alzati. E io vorrei che lo facciamo adesso. Chi sente che Gesù, la voce di Gesù nel suo cuore che ti dice alzati, si può alzare adesso. E poi noi pregheremo per questo. Pregheremo affinché quello che il Signore è il miracolo che Gesù ha già fatto quando ci ha detto alzati, lo possiamo fare nostro. Lo possiamo prendere nella nostra vita e prendere il lettuccio e portarlo. Perché sapete che cosa è successo quando ha preso il lettuccio? Che si è fatto uno spazio. La gente lo ha fatto passare, è rimasta a bocca aperta. Perché? Perché portava i segni che Gesù aveva operato nella sua vita. E questo dava gloria a Gesù, e questo liberava onore e gloria per la potenza del nome di Gesù. Ora io voglio che preghiamo assieme e che afferriamo quell'alzati nella nostra vita. Fra qualche minuto, io lo so la settimana che mi aspetta. In quella settimana che mi aspetta, ho bisogno che Gesù sia con me e ho bisogno che mi ricordi, Stefano, io ti ho detto alzati e cammina. Signore Gesù, io ti ringrazio perché tu ci ami. Io ti ringrazio Gesù perché tu hai dato la tua vita per ognuno di noi e l'hai data per la nostra salvezza, l'hai data per la nostra guarigione, l'hai data perché possiamo avere la vita eterna, l'hai data perché possiamo alzarci da quelle situazioni che ci tengono paralizzati. E Signore, tu hai provveduto sulla croce a ogni necessità, a ogni bisogno, hai provveduto a ogni autorità e a ogni potenza nel tuo nome per vincere l'opera del diavolo in noi e attraverso di noi. E perché noi possiamo essere quei tuoi servi che manifestano la tua opera dentro di noi e attraverso di noi, e quelli vogliamo essere. Vogliamo essere quei servi fedeli che rispecchiano la tua gloria. Signor Gesù, come quel paralitico, questa mattina ci vogliamo alzare e vogliamo prendere sul serio il tuo comando, la tua parola sulla nostra vita, sulla nostra famiglia, sulle nostre situazioni. Gesù, ti diamo l'onore e la gloria e ti riconosciamo perché sei il nostro Salvatore, perché sei il nostro Signore, sei il buon pastore che non ci fa mancare nulla. Grazie Gesù, ti vogliamo dare la lode e la gloria. Amen.